Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Il primo appuntamento di questa settimana con l'Adico all'interno di Diritti e Rovesci parla di scontrini che diventano scaricabili. È una novità importante, contrastata, perché le opinioni su questo sono diverse. Ne parliamo col presidente dell'Adico, Carlo Garofolini. Ciao Carlo. Ciao amico e un saluto a tutti. Allora, cosa significa che gli scontrini sono scaricabili? Beh, dobbiamo dire innanzitutto che questa è una proposta che è nata dalla Commissione Bilancio Finanza del Senato e che quindi, se proseguirà verso in questa direzione, sicuramente dovrà completare tutto un iter parlamentare. Quindi ad oggi dobbiamo già cominciare a non pensare di mettere via scontrini e poterli portare a maggio del prossimo anno in detrazione su 7,30. Siamo ancora proprio a livello di iter e di studio. Per quanto riguarda la domanda che mi hai fatto tu, sembrerebbe che il governo voglia cominciare a fare sul serio per quello che può essere un primo, io dico primo, intento a voler contrastare l'evasione, e quello di poter dar modo al consumatore che fino ad oggi non ha mai avuto possibilità di fare, e cioè quello di portare in detrazione alcune spese, di portare in occasione della dichiarazione dei redditi degli scontrini e poter andare in detrazione su quella che può essere poi una spesa che gli può venire riconosciuta o meno a seconda di quello che è il suo reddito e le entrate percepite. Scontrini o ricevute o fatture per cosa? Per tutto? Allora, oppure per qualcosa? Per settori specifici? Allora, oggi com'è? Oggi in occasione dei 7,30 il consumatore può portare in detrazione solamente le spese mediche, le eventuali spese sportive per i figli, può portare in detrazione gli interessi passivi del mutuo, le spese di veterinaria con una franchigia di 125 euro e tutto il resto. Chiaramente per le spese di veterinaria c'è una franchigia, per le altre spese ce n'è un'altra, non è la stessa, però queste sono un po' le voci principali. Poi c'è il contributo di servizio sanitario nazionale dell'RC Auto e Ogito, se per caso avete stipulato l'acquisto della prima casa quest'anno, parliamo per quindi la dichiarazione 2013. Il governo invece cosa ha detto? Cominciamo a pensare a una seria lotta di contrasto all'evasione, come dando possibilità a chi ha la busta paga, diciamo, perché questo è una, quando si parla di 7,30 dobbiamo pensare a chi ha un reddito che è fisso e quindi non può evadere come magari altre categorie hanno la possibilità, e con l'esibizione di scontrini speriamo che queste possano beneficiare di un regime fiscale che può avere per esempio le spese mediche quando appunto le esibisce un CAF, che ti dà la possibilità di recuperare, tolta la franchigia, il 19% della spesa sostenuta, quindi ti restituisce dei soldi. Ecco, però se questa cosa andrà in vigore, che ne so, anche andando a comprare il pane o il gelato, questi scontrini sono detraibili? Allora, è chiaro che la spesa alimentare non sarà una spesa, noi crediamo, io penso quasi sicuramente, non dobbiamo illuderci dal fatto che andiamo a fare la spesa del pane o andare al supermercato e poter scaricare la spesa alimentare, perché ritengo che molto difficilmente si possa pensare di evadere il fisco quando si va a un supermercato o a un ipermercato, ma cominciamo a pensare che si possa detrarre quelle ricevute o quei scontrini che può rilasciare un ristorante, un barbiere, una parrucchiera o un meccanico, un elettricista o un idraulico che viene a casa tua. Quindi chiaramente non saranno 10.000 scontrini da dover mettere via come molti hanno si sono subito allarmati dicendo cioè adesso diventeremo commercialisti con 1 miliardo di scontrini. Io credo che un elettricista, un idraulico che venga a casa nostra, se va bene, cosa che non mi auguro che nessuno ne abbia bisogno, possa capitare una volta all'anno. Speriamo che questa cosa invece possa rivolgersi anche alle parrucchiere, ai ristoranti e ai meccanici, perché ecco già qua allora aumentano un po' quelli che possono essere i margini di detraibilità, e quindi qualche scontrino in più vale la pena secondo noi metterlo via. Ecco, diciamo che starebbe poi a noi consumatori per primi chiedere di avere la fattura, lo scontrino, cosa che dobbiamo dirlo insomma non sempre facciamo, perché ci fa anche comodo pagare qualcosa in meno. Certo, di fronte a quello che può essere il fatto di oggi le cose come stanno, il consumatore finale di fatto paga interamente l'IVA, non la può detrarre, e parliamo di un valore aggiunto del 21% che un indomani potrà essere 22%. Io non credo, e sicuramente purtroppo sarà così, e non saranno certamente le bollette che avrai la possibilità di scaricare, perché dove c'è già un controllo ed è impossibile evadere, il governo sicuramente non gliene potrà fregare che meno. Ma avrei la possibilità di detrarre anche, non sarebbe già una conquista parlare di 19%, anche se non pagare, anche se l'IVA è il 21%, ma già poter beneficiare di un regime come quello può essere le visite mediche, le visite specialistiche o i medicinali da banco, credo che sia già un bel passo in avanti che possiamo fare, sperando che questa cosa qui veramente possa andare in questa direzione qua, perché è anche vero che se uno mi chiede cosa ne penso quando ho letto questa cosa qua, un po' mi sono messo anche a sorridere, perché se fino a ieri il governo parlava di portare il limite delle spese di detrazione a 3.000 euro e di raddoppiare la franchigia da 125 a 250, quale limite per non poter detrarre, oggi improvvisamente leggo che ti danno la possibilità di detrarre gli scontrini. Cioè, mi pare che c'è qualcosa che stona. Spero che comunque, ripeto, non siano dei semplici slogan fatti alla vigilia di un governo che sta terminando il mandato, ma che sia veramente il primo serio intervento di contrasto, di lotta all'evasione che si voglia fare in questo senso. Ecco, poi magari anche il piccolo artigiano alla fine cerca in qualche modo di tutelarsi. Forse l'evasione, sì, magari c'è anche tra gli artigiani, certamente ci sono dei casi, ma magari le grosse evasioni, quelle che mettono in difficoltà i nostri conti, forse stanno da altre parti. Ma è vero, Mingo, che oggi se si vuole fare dei controlli ci sono gli strumenti, i cervelloni che lo possono fare, perché comunque è vero che come il governo, l'Agenzia delle Entrate hanno promosso un redditometro di cui chi ha provato a collegarsi è risultato che le famiglie vivono di sopra delle proprie capacità, e già qua mi sono registrato dalle risate. Io credo che questa sia una cosa seria che vale la pena essere sviluppata. Ho notato dei pareri contrastanti da parte chiaramente degli artigiani, che loro dicono tanto noi non evadiamo perché comunque abbiamo i controlli settoriali, abbiamo questo, abbiamo quello. Ora io dico, questo non è certamente un'iniziativa che è rivolta a loro, questa è un'iniziativa che viene rivolta alle famiglie, a chi ha la busta paga e chi l'IVA non ha possibilità di detrarla. Se loro sono tranquilli e sono sereni e sanno che pagano le tasse e vivono già su un regime fiscale che non gli permette di evadere, credo che siano gli unici che possano avere voci in capitolo in questa vicenda. Ripeto, essendo che questa cosa va a comunque dal modo di poter beneficiare le famiglie e chi ha la busta paga, invece ritengo che questa cosa qua possa essere molto interessante, e mi auguro che veramente sia una di quelle pochissime cose che si possa veramente portare a termine, di cui un cittadino possa ricordare che questo governo ha fatto in favore delle famiglie. La terremo d'occhio e vedremo se e come arriverà all'approvazione. Intanto ti ringraziamo e annunciamo che tra un paio di giorni parliamo del caso Windjet, che è un altro caso caldo di queste settimane. Grazie Carlo, buon proseguimento. Grazie a te Mirko e un saluto a tutti. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.